Radio 24 presenta Il riposo del guerriero con Stefano Gallarini. Eccoci qui, buona domenica da Stefano Gallarini, comincia il riposo del guerriero. Questa domenica, beh, lo sapete perché se state seguendo la radio, siamo in diretta da Verona, dal Vinitaly, e nel padiglione 3, dedicato al Trentino, che ringraziamo per l'ospitalità e che vedrà protagonista il programma con quello che è il lusso. Lusso perché il lusso fa parte della nostra vita quotidiana, anche quando non ce ne rendiamo conto. Per molti il lusso ha a che fare con il denaro, per altri no, il lusso può essere qualcos'altro. Vedremo come le eccellenze sono particolarmente presenti anche qui al Vinitaly, ma non soltanto, anche le eccellenze magari nella nostra vita quotidiana. Parleremo di lusso sicuramente. Vi invito come al solito a scrivere gli sms al 349-238-6666 oppure di andare sulla nostra pagina di Facebook dedicata proprio al programma Il riposo del guerriero. E come sempre anche oggi alle 11.30 ci saranno 1000 euro da spendere su libreriarizzoli.it, ammesso che riusciate a risolvere il mistero in 24 minuti. La possibilità vi è data, ammesso che riusciate appunto a trovare la soluzione, che può essere o una notizia della settimana oppure un personaggio, qualcosa di particolarmente famoso. Per arrivare alla soluzione avrete gli indizi musicali, più indizi ascolterete più il premio si abbasserà. Il numero per partecipare già da adesso 800 24 00 24. Adesso aprite i vostri armadi, guardate la vostra casa e cercate dov'è il lusso. Straordinario Tim Floyd di Money per cominciare, perché in effetti il lusso spesso si associa al denaro, ma non è detto che sia così. Paola Bottelli, giornalista di Luxury 24, ciao, buona domenica. Buongiorno, beato te che sei al Vinitaly, chissà che cose buone che assaggerai. Io per adesso le cose buone le sto soltanto guardando. Beh, immagino, adesso sì. Poi magari più tardi, finita la trasmissione, ma tu non vieni qua? Non passi? No, io non vengo lì perché sto preparando il salone del mobile, dove la nostra redazione di Luxury24.it avrà un ufficio mobile nel salone ufficio del salone del mobile nei padiglioni di Rho Pero. Anzi, aspetto tutti i tuoi ascoltatori domenica prossima, che sarà aperta al pubblico, l'unico giorno aperto al pubblico. Ecco, tra l'altro voglio anche ricordare a questo proposito che uscirà la collana I maestri del design, a cura di Andrea Branzi, per la prima volta in un'opera unica, in edicola con Il Sole 24 Ore, a partire dal 14 aprile 2011. Proprio in occasione del Salone del Mobile ci sarà quest'opera che potrete acquistare in edicola con il racconto dei maestri del design, quindi un'opera completa per chi poi si interessa di questo, ma non soltanto, perché credo che il design comunque faccia parte della nostra quotidianità, Paola. Ma direi proprio di sì, il design, anzi l'arredo design, che è un'eccellenza del Made in Italy, anche se ha vissuto un momento non facile dal 2008-2009 con il post crack Lehman Brothers, un po' come tutti i settori industriali e finanziari del mondo. Dicevo, è un'eccellenza assoluta della produzione italiana, perché proprio gli italiani sono riusciti per primi, anche piccole imprese, medie imprese, ma forse soprattutto piccole, a lavorare insieme a dei grandi architetti, a dei grandi progettisti. Gio Ponti è uno di questi, il primo nella collana Maestri del Design che tu prima citavi. Sì. E creando veramente un connubio unico al mondo. Ecco, io volevo capire da te, Paola, questa è una domanda che oggi farò a tutti gli ospiti. Lo so che sembra banale, ma in realtà la risposta non lo sarà. Ovvero, che cos'è il lusso oggi? Perché ognuno associa la parola lusso a qualcosa. Tu che cosa associ alla parola lusso? Allora, ci pensavo che tu hai lanciato questa domanda ai tuoi ascoltatori poco fa, prima di questa bella canzone. Io pensavo che il lusso è il riposo, secondo me. Cioè la possibilità comunque di avere dei momenti propri, dei momenti intimi in cui fare quello che si vuole, quello che più piace. A me ad esempio piace molto buttare buttarmi, sdraiarmi sui miei bei divanoni di design per l'appunto e anche non fare niente, cioè ascoltarmi della buona musica, leggermi un bel libro, un po' in santa pace. Questo secondo me è un vero momento di lusso per me, secondo me è questo. Paola, c'è un ambito secondo te in cui il lusso o comunque il bello è meno presente, o ormai veramente ha abbracciato tutto, non c'è più qualcosa che non abbia a che fare con il design, il bello, il gusto? Ma guarda, forse è anche un bene che la cultura del bello si appropri un po' di tutti gli aspetti della nostra vita. Anche se non è che ce ne dobbiamo fare, come dire, non dobbiamo esserne schiavi, ecco, vorrei dire. Ecco, ma non c'è una ricerca, perché adesso tu parlavi di lettura, allora immaginavo immediatamente le copertine dei libri, no? Piuttosto che la carta con la quale sono stampati. Le etichette dei vini, dove tu sei, le etichette ormai sono dei capolavori. Sì, più del contenuto, infatti, a volte. Non lo so, non sono così esperta per dirlo, ma potrebbe anche essere. Lo chiederemo poi a Davide Paolini, ma è così, non sempre ovviamente, però capita, no? Bellissime etichette, poi magari il vino è mediocre. Ecco, non L'Italia è impregnata di gusto per il bello, di cultura del bello, anche se ci sono tantissimi scempi, non so, la spazzatura a Napoli, ne dico una, la prima che mi viene in mente, la poca cura che abbiamo a volte, troppo spesso, anche noi cittadini delle nostre città. Questa è una cosa che ad esempio mi infastidisce parecchio, però devo dire che proprio questa cultura del bello che è innata in noi italiani è quella che piace tantissimo ai turisti di tutto il mondo e che sono in questo momento, grazie al cielo, la leva dello shopping di beni di lusso, perché in questo momento i consumi in Italia, come tutti sanno, sono fermi in questo momento, ma già da parecchio tempo. Sì. E se non ci fossero questi turisti stranieri amanti del bello italiano, che si declina in tante cose, nelle bellezze naturali che grazie al cielo ci sono arrivate senza che dovessimo crearle noi, ma in tutta la cultura, l'architettura, l'arte di cui siamo assolutamente carichi, e di tutte le cose belle che possiamo riuscire a far loro apprezzare, dal vino a una bella borsa, da un bel albergo davanti in mezzo alle colline toscane, a un ristorante dove mangiare bene, con gusto italiano. Ecco, questo mi piace molto e vorrei che ci puntassimo molto di più nel nostro presente e nel nostro futuro. Ecco, questo è un bell'appello, guarda, al quale mi associo assolutamente. Paolo, ti chiedo di rimanere ancora un attimo in linea, gli aggiornamenti sul traffico, torniamo a parlare con te. Il riposo del guerriero. Sempre in diretta dal Vinitaly, il padiglione 3 dedicato al Trentino, e Paola Bottelli, giornalista di Luxury 24, lo trovate su internet, luxury24.ilsole24ore.com. Paola, l'ultima domanda che ti volevo porre è questa: voi avete diverse sezioni sul sito, le cito, moda e stili, people and parties, beauty and benessere, gusto e mete, motori high tech, arte design, eco e charity. E non so se lo sai, c'è una di queste sezioni più visitata rispetto alle altre? Sì, la sezione più visitata è quella di moda e stili, ma la seconda, perché naturalmente ci occupiamo di moda, quindi delle sfilate, degli stilisti, che sono temi che in Italia contano molto, il nostro sito è in italiano, quindi ovviamente siamo molto più seguiti in Italia che non, certo, evidentemente all'estero, però gusto e mete, gusto proprio di temi legati al Vinitaly e anche comunque al benessere del proprio tempo libero, sono molto molto seguiti e visitati. Il venerdì generalmente noi carichiamo sempre delle mete, delle destinazioni, delle fughe romantiche al mare, le città d'arte, che sono molto visitate e interessanti per i nostri lettori. Ecco, infatti poi cercheremo anche oggi di vedere quali mete sono particolarmente di lusso, ma questo è un altro capitolo. Grazie Paola Bottelli, buona domenica. Grazie a voi, buon lavoro. Berrò un bicchiere per te di vino, visto che tu a Vinitaly non ci sarai, allora ne berrò uno in più anche per te. Ciao, grazie. L'occhiataccia di Natasha mi aveva così sconvolta che dopo pranzo decisi che l'unico rimedio possibile era andare a fare shopping. Ma mentre cercavo le scarpe che volevo, girai l'angolo sbagliato e più o meno a sud di Houston Street mi persi completamente. Oh, mi scusi tanto, so che sembra ridicolo, ma mi sono persa. Puoi indicarmi da che parte è la West Broadway? Dammi la borsa. Come? La borsa. Veramente è una baguette. Beh, dammela. Non ci potevo credere. 15 anni passati a New York e proprio quando la città diventava più sicura mi derubavano. Ma è uno scherzo. Dammi l'orologio e l'anello. Oh, Gesù santo. È stretto. Sbrigati. Ok. Dammi anche le Manolo Blahnik. Cosa? No! Dammi quelle fottute Blahnik! Questi tizi non vogliono solo soldi. Si intendono anche di moda. La prego, sono le mie scarpe preferite. È stato un affare. Le ho prese a prezzo di costo a una vendita di campionario. Grazie. Vi prego, aiutatemi! Che qualcuno mi aiuti! Mi ha rubato i sandali di Manolo Blahnik! Per favore, aiutatemi! Che schifo! Questo era un momento di Sex and the City. Antonio Mancinelli, caporedattore di Marie Claire. Ciao, ben ritornato. Grazie, grazie di avermi invitato di nuovo. Come va? Ciao, bene, ti sei svegliato. Grazie, cioè, so che Antonio avrebbe voluto dire sei cattivissimo perché mi hai risvegliato di nuovo la domenica mattina. Questo avresti voluto dire. Non so, no, cattiva. Non è così, sono già sveglio, quindi... Va benissimo. Abbiamo parlato del tuo libro da poco uscito, che è finalmente Libere, 45 più donne raccontano come si sopravvive a 45 più anni, però tu prima di questo hai pubblicato un altro libro intitolato Moda, con tanto di punto esclamativo. Esattamente. Allora, vogliamo, oggi parliamo di lusso, io partirei dalle Manolo, così citate in questo pezzetto di Sex and the City. Perché considerate il lusso? Ma innanzitutto perché c'è stato un periodo negli anni 90 in cui siamo passati da quello che era lo status symbol a quello che io chiamo lo style symbol, no? Per cui non c'è tanto il possedere un determinato oggetto in quanto è bello, in quanto è prezioso, ma questo appartiene al passato, ma perché fa di noi una sorta di appartenenti a una tribù, tant'è vero che appunto le famose Manolo Blahnik che indossa Carrie Sex and the City, sì, sono una specie di segnale di riconoscimento per le sue amiche, e non è un caso che proprio da quel telefilm Manolo Blahnik, che comunque faceva scarpe già da 30 anni prima, è diventato famoso internazionalmente. Prima di questo telefilm non era così famoso, e lo stesso si può dire di Jimmy Choo, che è un altro che non è un raffreddore ma è un altro designer di scarpe che è diventato famoso proprio in Sex and the City, perché in quegli anni, negli anni 90, come dire, avere un determinato oggetto, la baguette di Fendi che dice prima Carrie, sì, e appunto un determinato paio di scarpe, diventa segno di appartenenza a una tribù, in questo caso una tribù delle cosiddette ragazze ricche, benestanti, single, che lavorano. Ecco, allora com'è cambiato il lusso in questi anni? Cioè, io discutendo anche con te qualche giorno fa, prima della puntata, ritenevo, magari erroneamente, ma così sono tanto un pensiero, no? Dicevo, forse una volta la moda, l'alta moda se la potevano permettere solo poche persone, per cui vedevi, quando tu vedevi un capo, un vestito, qualcuno che lo indossava, riconoscevi proprio la capacità di indossarlo e anche il lusso in questa persona, no? Oggi in fondo se lo possono permettere un po' tutti, o non è così? E quindi è cambiato proprio il senso che si ha del lusso? Allora, sicuramente è cambiato il senso che ha del lusso, però Gallerini, ti devo dire che tu hai un atteggiamento un pochino moralistico, permettimi, riguardo al lusso. Nel senso e come che, dice Boggi, è bellissimo essere moralisti, questa, questa è un'altra discussione che magari faremo con lui dopo. Sicuramente, io ho scritto anche un altro libro dopo moda che si chiama Fashion Box, che, sì, dove appunto analizzavamo alcuni capi indossati da alcune icone, per cui Audrey Hepburn con il tubino, Grace Kelly con il twin set, eccetera. Per cui, come diceva prima l'ottima Paola Bottelli, che è una collega che stimo moltissimo, ormai il lusso oggi è diventato molto più diffuso, per cui si parla di una vita, no? Per cui si parla, per il lusso ha una, come dire, una sua caratteristica fondamentale, in questo non è mai cambiato, e cioè deve essere una cosa che, detto con la mia R, diventa terribile, deve essere una cosa rara, deve essere una cosa difficile da trovare, e quindi è cambiata la definizione, nel senso che è molto più soggettiva, e cioè il lusso può essere, ad esempio, per noi che lavoriamo tanto, avere 3 giorni di vacanza senza fare niente. Quindi sei d'accordo con Paola, essere... il lusso è il riposo per Paola, lei diceva. Il lusso è il riposo, il lusso può essere un ottimo bicchiere di vino, il lusso può essere, non so, avere delle cose, non so, un mazzo di fiori freschi ogni giorno sul tavolo, e quindi non è legato più soltanto all'aspetto. Per quello che invece riguarda più strettamente la moda, io vedo invece con ottimismo due cose, al contrario tuo, e cioè che da un lato c'è sicuramente una maggiore possibilità, non di lusso, ma di essere alla moda, e cioè di seguire le tendenze, grazie al fatto che ci siano delle catene di abbigliamento cosiddette low cost, dove tutti possono andare, dove tutti possono permettersi di avere un look, come dire, nell'area dei tempi. Però noto con molto piacere che ci sia da parte anche di alcune giovani, ma anche di alcuni giovani, proprio dei ventenni di oggi, un ritorno verso l'autentico lusso. L'autentico lusso quale può essere se non l'autenticità, l'originalità è una cosa fatta apposta per te. Per cui sta tornando moltissimo, paradossalmente, tornare dalle sarte. Perché infatti, forse sì, oggi in un mondo sempre più globale, sempre più globalizzato, sempre più omologato, sempre più omogeneizzato, il vero lusso è avere una giacca per cui si possa rispondere a questa domanda: che bella giacca, di chi è? Tu rispondi: è mia. È mia, l'ho, cioè, fatta si fare. Va oltre, certo. Si va oltre al fatto che ci sia l'etichetta dello stilista famoso. E io vedo con molto piacere che ci sono ragazze ventenne, ma anche ragazzi ventenni, che tornano dal sarto a farsi fare il vestito su misura. Che rapporto perché c'è? Tanto, ecco, distinguiamo il concetto di moda dal concetto di lusso, il concetto di eleganza dal concetto di lusso. Sì. Il lusso molto spesso non ha a che fare con la ricchezza, ma a che fare con il gusto e con un tipo appunto di originalità, un'esigenza di essere autentici. E questo oggi è possibile, paradossalmente tornando un pochino indietro, cioè tornando appunto alle sarte. Poi per essere alla moda ci sono tantissimi negozi e c'è un lusso cosiddetto democratico, cioè, però ecco, c'è molta confusione tra lusso e moda. Il lusso vero è sicuramente quello di essere se stessi. Ecco, infatti ti avrei chiesto che rapporto c'è per esempio col denaro, cioè se il lusso significa ancora una volta spendere molto oppure non necessariamente. La controprova è il fatto che noi vediamo tantissime per lavoro, tantissime foto, oppure talvolta le incontriamo, tantissime signore, attrici ricche che hanno addosso milioni di euro tra vestiti, accessori, scarpe, make-up, chirurgia estetica, mettiamoci dentro tutto, e sono comunque delle campionesse di cattivo gusto. Per cui, mentre invece possiamo incontrare anche delle studentesse, delle persone. E per cui fondamentalmente il lusso è ancora una volta eleganza alla fine. Sì, anche, e l'eleganza, okay, perdonami adesso questa così, questa ascesa un pochino saccente, fallo, viene dal latino. La parola eleganza ha una sua etimologia ben precisa che viene da eligere. Eligere vuol dire scegliere. E allora il fatto di saper scegliere cosa ci sta meglio e quindi evitare, come dire, l'effetto ridicolo, è segno di grande intelligenza. Quindi secondo me il lusso, come diceva anche Coco Chanel, se l'eleganza è chic, il lusso è volgare, non deve essere per forza un qualcosa, un oggetto, un vestito, un accessorio che costi molto. Si può essere estremamente eleganti senza spendere una fortuna, e questo direi che è molto buono per tutti. Assolutamente sì, decisamente, anche per molti. Grazie Antonio Mancinelli, puoi proseguire a dormire se vuoi, ci sentiamo alla prossima. No, ciao. No, ormai sono sveglio e ascolterò. Ormai sei sveglio e sei a posto. Grazie Antonio, ciao, buona domenica. Grazie a voi. Ci fermiamo per le comunicazioni pubblicitarie e poi torniamo con il riposo del guerriero in diretta dal Vinitaly qui a Verona. Il riposo del guerriero. Franco Zigliani, presidente della Guido Berlucchi, ha ricevuto il premio internazionale Vinitaly e la medaglia di Can Grande quale benemerito della vitivinicoltura italiana. Leggo testé perché sono due premi importanti. C'è Paolo, il figlio Zigliani, qua al mio fianco. Paolo, benvenuto. Buongiorno. Due riconoscimenti importanti, 50 anni dal Franciacorta con tanto di francobollo. Eh sì, è stata una grande soddisfazione questa da parte del Ministero dello Sviluppo Economico di Poste Italiane, che hanno riconosciuto insomma nel brand Berlucchi e anche in mio padre una vita di sacrifici e di lavoro, però con questa soddisfazione che insomma ti fa capire di andare avanti, la strada è quella giusta. Cos'è il lusso? Ma sai, io non c'è una risposta, occupo... ma però ogni ospite avrà la, certo, sua. Ma io mi occupo della parte all'interno della nostra azienda, della parte marketing e commerciale, quindi sono abituato a cercare di capire ogni mercato, perché i mercati sono diversi, il mondo è grande e quindi le evoluzioni della società non sono parallele e uguali in tutti i mercati, e quindi c'è ancora una parte importante nel mondo che considera il lusso come pura ostentazione e basta. Quindi qui il prezzo, pensiamo ovviamente ai mercati, ai nuovi mercati, l'Oriente, l'Estremo Oriente, i mercati arabi, dove veramente sì, il gusto magari non c'entra poi tanto, però il lusso è appunto ostentazione pura. A noi piace di più invece concentrarci sulla qualità della vita, perché secondo me questo è il punto di forza che l'Italia nel mondo ha e che potrà avere anche nel futuro. Cioè il Made in Italy mi sembra di poter dire che ha sempre svolto una funzione importante, perché sta convincendo tanti consumatori che la qualità della vita in Italia e la qualità della vita di noi italiani è una cosa piacevole. Ecco, Paolo Bottelli prima faceva un po' un appello agli italiani dicendo che hanno poca cura del loro paese, delle loro città. C'ha ragione probabilmente. Vabbè, l'annoso problema lo sappiamo benissimo. Io penso che sono sposato con mia moglie di Salerno, quindi la costiera amalfitana, zona che io amo, e ogni tanto certo che pensi si potrebbe fare veramente tanto di più, perché abbiamo una ricchezza naturale. Ma perché siamo così? C'è un motivo? Non beviamo abbastanza? Non lo so. A chi lo sa, è una questione di società, di storia, di persone, ma mi sembra che piano piano i miglioramenti ci siano. Per esempio la Sicilia la vedo bene ultimamente, vedo che si muovono molto bene, stanno capendo sempre più che insomma il turismo, e quindi il lusso fa parte anche di quello, perché potersi permettere anche solo di stare in una spiaggia con un mare stupendo, cosa c'è di più? Quindi anche tu sei d'accordo nel dicendo che il riposo per esempio può essere, è il lusso, poi se il riposo riesce a essere fatto sedendo su una bella poltrona piuttosto che osservando certo. Un bel... E noi possiamo, e anzi dobbiamo puntare a continuare a promuovere questa qualità della vita italiana che ci è data da una parte dalla natura, e un po' anche siamo, non vorrei sembrarvi presuntuoso, però sono convinto, siamo anche un po' bravi tutti noi italiani nell'essere fantasiosi, nel sapere. Ecco, io credo che il continuare a comunicare, come ormai si sta facendo, che l'Italia veramente ha lusso in questo senso, e credo che serva proprio a dire agli italiani: abbiate più cura di quello che avete intorno, ecco, perché forse una volta non ci si rendeva conto di questo perché veniva comunicato di meno. Sì, probabilmente è vero, ma infatti ribadisco, vedo che anche se piano piano, però mi sembra che sempre di più stiamo migliorando. Cioè, sappiamo che i problemi principali, comunque, senza voler essere razzista, perché appunto ribadisco, sono sposato con una salernitana, per cui lo posso dire tranquillamente, però i problemi principali ce li abbiamo al sud. Ma comunque, siccome io ci vado spessissimo perché sto sempre benissimo là, vedo che piano piano c'è un miglioramento, cioè c'è un cambiamento nella mentalità delle persone, e sempre più persone capiscono che è importante preservare questa ricchezza che è naturale, che noi abbiamo. E deve essere così. 349-238-6666 per gli sms. Io volevo chiudere con questo. Abbiamo parlato di etichette prima, sempre con Paola. Sì. Quanto sono davvero importanti ormai? Sono importantissime, ma come è importantissimo tutto il resto? Dalla forma della bottiglia a... È tutto importante, cioè un'azienda e un prodotto deve avere tutti i tasselli del puzzle che compone questa azienda al posto giusto, nel momento giusto, quindi tanto è importante il packaging. Forse lo è importante di più negli ultimissimo periodo, siamo in una società dove l'esteriorità conta forse di più del di contenuto prima. A volte noi siamo un'azienda che però ci mette anche tanta anima, se mi passa, la parola, perché comunque quella è il vero valore aggiunto, credo, che un prodotto debba avere. Grazie Paolo Ziliani, complimenti ovviamente. Piacere. A suo padre e a tutta la famiglia, perché so che insomma i riconoscimenti dicono già tutto, quindi è inutile aggiungere altro. Grazie a te, grazie. Buona continuazione. Grazie, e andiamo avanti parlando di lusso, perché c'è Andrea Ferrario al telefono. Andrea, buona giornata. Ciao, buongiorno. Allora, prima del tuo intervento, io volevo far ascoltare questo momento dove si parla proprio di lusso con l'aliena Enrico Lucci. È il trionfo del lusso più lussuoso. Lusso, lusso, lusso. E della bellezza più bella. Bello, bello, bello. Dalla canna da pesca in oro all'orinatoio ornato sul bordo con cristalli Swarovski, ai jeans, allo champagne. Sono imbevuti. Imbevuti. Imbevuti di champagne. Ecco, guardate gli, i jeans imbevuti di champagne. Nessuno ci aveva mai pensato prima, come nel caso del primo pavimento in oro 22 carati. Perché non camminare sull'oro? Infatti, giusto? Perché limitarsi? Da 5.000 euro al metro. Questo è il primo pavimento in oro esistente al mondo. Al mondo, sì. Al mondo. Prima non c'era. Ma prima non c'era neanche la borsetta da 70.000 euro. Uno strato di 24 carati d'oro. Frutto di un'idea originale al servizio dell'umanità. Cioè non si è mai vista al mondo? No. Non si è mai vista al mondo. E chi non ha mai avuto l'urgenza di una chiavetta USB? Diamanti. Ah, diamanti, ecco, la chiavetta per il computer con dei diamanti. Un po' più carina del solito. Che sui 25.000 euro. Ah, la chiavetta del computer è 25.000 euro. Andrea, non hanno spiegato però da quanti giga è, spero almeno uno. Ma solitamente il compatto tecnologico di questi dispositivi non è relazionato assolutamente al prezzo. Direi di no. No, intanto voglio spiego chi sei, nel senso che Andrea Ferrario è il caporedattore di Tom's Hardware, un sito famosissimo, devo dire, che parla proprio di hardware, di gadget, e che ha stilato anche una classifica dei gadget di lusso. Adesso vedremo un po' di raccontarvela. E ovviamente qua si parla soltanto di estetica, ma come diceva prima Ziliani, di ostentazione. Sì, assolutamente, ostentazione per quanto riguarda il comparto tecnologico, il lusso e ostentazione. E aggiungerei unicità, cioè rendere un prodotto comune, modificarlo per rendere un prodotto unico. Ecco, quindi potremmo crearcelo anche noi, nel senso che prendo una normalissima chiavetta USB, poi gli facciamo una copertura, non so, di platino, abbiamo reso di lusso una normale chiavetta e l'abbiamo fatta nostra. Sì, assolutamente, è corretto quello che dici. E infatti proprio questo è il modo in cui i produttori, le varie aziende cercano di trasformare un gadget, come detto, normalissimo, in un qualcosa di molto molto costoso e lussuoso. Allora, io vorrei cominciare da un cellulare straordinario, perché è assolutamente ecologico e alla modica cifra di 50.000 dollari, scusa, rido. Cioè si carica dollari. Con l'energia, no, si carica usandolo, vero? Cioè muovendolo. Sì, praticamente si chiama Chairman, è prodotto dalla Ulis Nardin, che è un'azienda svizzera che ha da sempre prodotto orologi, e quindi ha creato quello che proprio chiamano uno smartphone ibrido, che è un semplice smartphone, se vogliamo vedere dal punto di vista tecnologico, a cui è stato aggiunto un meccanismo di ricarica che è lo stesso degli orologi, comunque sarà simile, ecco, certo. Sì, chiaramente è un brevetto loro, ma è molto simile a quello di tutti i vari orologi automatici. Ecco, ho una domanda però, Andrea, secondo te questa è una strada? Cioè nel senso che adesso costa 50.000 dollari, chiaramente è una produzione ovviamente limitatissima, ma potrebbe essere una strada per il futuro? E quindi rendere davvero possibile a tutti i cellulari la possibilità di ricaricarsi in questo modo? Ma guarda, per questa strada la soluzione è molto più semplice di quello che sembra, e non è necessario un meccanismo complesso, perché vediamo già dispositivi cellulari dotati di pannelli fotovoltaici, quindi che si ricaricano tramite con la luce, l'energia solare. Questo è proprio più che altro un esercizio di stile, anche perché l'energia necessaria per il funzionamento del cellulare è molto più alta rispetto a quella di un semplice orologio, quindi ha una piccola parte ecologica. Apprezziamo lo sforzo dell'azienda, ma tutto il resto è proprio una pura ostentazione, anche se vediamo i materiali con cui è fatto, che oro, la produzione stessa, proprio realizzata nei minimi particolari, che appunto fanno lievitare il prezzo fino alle nostre 35.000 euro circa. Certo. A parte iPhone d'oro, iPad d'oro, perché comunque alla fine è facile, no? Tra virgolette. Sì. C'è qualcuno tra i 20, se non mi sbaglio, gadget che avete elencato che ti ha invece particolarmente colpito, magari non soltanto per il prezzo, ma perché è anche un'idea particolarmente interessante? Bah, guarda, c'è un altro cellulare che è creato da un'azienda francese, il cellulare si chiama Papillon, che più o meno assomiglia al chairman di Ulysse Nardin, di cui abbiamo appena parlato, che appunto integra da una parte un cellulare e dall'altra parte un dispositivo, un classico orologio meccanico. Sono più di 500 minuscoli pezzi meccanici sapientemente messi, insomma, creati per poi fare questo abbinamento tra tecnologia e come dire, analogico e digitale, il meccanico e il digitale, quindi un po' di passato con un po' di futuro. È un prodotto particolare, un prodotto, come dire, unico, è un qualcosa che non si vede tutti i giorni, molto molto particolare. Ecco, l'ultima domanda che ti faccio, Andrea, è questa. Visto che voi vi occupate di tecnologia, ormai per molti la tecnologia è anche sinonimo un po' di lusso da un certo punto di vista, no? Io credo che moltissimi, per esempio, abbiano acquistato gli iPhone senza sapere esattamente cosa stessero acquistando, non utilizzandoli come avrebbero potuto, e poi mano a mano hanno capito cosa potessero fare, ovviamente avendolo, e per cui c'è stata un'operazione proprio di moda. Credi che la direzione in cui si stia andando sia sempre questa o si stia un po' cambiando? Cioè, la gente adesso vuole anche sapere cosa sta acquistando dal punto di vista tecnologico e non soltanto estetico, almeno all'inizio. Per fortuna io penso che stia leggermente cambiando, nel senso che l'iPhone ha aiutato a muoversi in questa direzione, quindi certo, ha, diciamo, catturato inizialmente per l'immagine, per quello che è il nome stesso dietro l'iPhone. Però piano piano la gente sta iniziando a capire che c'è qualcosa di più oltre l'estetica, e i produttori lo stanno un pochettino sentendo, e quindi stanno cercando di fare un mix abbastanza bilanciato tra quello che può essere un bel prodotto da vedere, un prodotto costruito con dei buoni materiali, ma anche un comparto tecnologico che, come dire, siamo nell'era digitale, quindi è anche necessario avere un dispositivo che ci accompagna tutti i giorni, che non sia solo bello ma sia anche utile. Nella tecnologia è vero che più spende meno spende o non è vero? Più spende meno spende è vero, rimane ancora, diciamo che ci sono dei piccoli vantaggi che si hanno quando la spesa è maggiore, non tutti riescono ad avvantaggiarsi di questi piccoli, diciamo, miglioramenti. Diciamo l'assistenza tecnica, per esempio, l'assistenza post vendita, faccio un esempio di quello che può far aumentare il prezzo di un prodotto ma che lo rende quindi migliore di un altro. Ma come ho detto, sì, è vera, però stiamo sempre cercando di migliorare senza far lievitare troppo i prezzi, perché ormai si sta attenti ovviamente anche a quello che è fondamentale. Grazie Andrea Ferrario. Grazie a te. Complimenti per il vostro sito. Gli aggiornamenti sul traffico e poi torniamo a parlare di lusso. Il riposo del guerriero. Il lusso, di questo si parla oggi qui in diretta dal Vignitaly. Mona Larsen, buona domenica. Sì, buongiorno a voi. Buongiorno. Mona Larsen è la responsabile dell'agenzia Your Private Italy, un'agenzia che si occupa proprio di organizzare viaggi, ma non soltanto, anche situazioni che hanno a che fare con il lusso. Tra l'altro voi siete gli unici che possono proporre il viaggio nello spazio con Virgin, vero? Sì, esatto, la Your Private Italy si propone come agente esclusiva appunto per Virgin Galactic, che fa parte del famoso gruppo di Virgin, appunto questo progetto che andrà nello spazio. Sono i primi voli per lo spazio disponibile per persone che non sono astronauti professionisti, ma che sono appunto qualsiasi persona che si può permettere di iscriversi a questa esperienza, che oggi si può acquistare al costo di $200,000. Sì. È un progetto che si pensa che sarà lanciato effettivamente con i primi voli, con le prime partenze già a partire dal 2012. Ah, quindi ci stiamo avvicinando sempre di più, perché quando se ne parlava già credo 5 anni fa più o meno. Sì, esatto, è qualcosa che a breve sarà realizzabile. Vero. quindi sì. Chiaramente non ti chiederò mai, perché non li potrete dire, ma va bene così, i nomi di chi si è potuto permettere i $200,000 per fare questo viaggio nello spazio. Quanto durerà questo viaggio? Allora, il volo di per sé dura 2 ore e mezza. Però sì. È sicuramente un'esperienza che si estende su 3-4 giorni pieni, perché si tratta di raggiungere innanzitutto l'aeroporto spaziale, che è stato organizzato e programmato nello stato del Nuovo Messico. Sì. E lì si inizia tutta la preparazione. Beh, certo, perché non è come prendere l'aereo normalmente. Scusami, esatto. Mona, ho una curiosità: ci sono ancora posti oppure sono già stati tutti quasi esauriti? Ma diciamo siamo già a buon punto, in quanto sono circa 390 persone nel mondo che si sono iscritte già a questo viaggio. Però diciamo, se non si è tra i primi, comunque c'è una buona possibilità ancora di iscriversi. Però chiaramente è una cosa che né io né credo i miei ascoltatori riusciranno mai a permettersi, ma non importa, forse probabilmente neanche tu, Mona, ma non lo so, immagino. Allora, no, perché insomma non sono pochi $200,000 ovviamente. E invece voi avete a che fare, proponete ovviamente anche altro, pacchetti decisamente meno costosi ma comunque di lusso, vi occupate sia di viaggi sia di proprietà e sia anche di eventi come matrimoni, faccio un esempio. E quali sono gli eventi più richiesti, Mona? Ma diciamo che qualcosa che sta riscuotendo un notevole successo in questi ultimi anni tra i nostri clienti, che sono prevalentemente americani e russi, che vengono qui a fare le loro vacanze in Italia, sicuramente è un'esperienza come noi definiamo Ferrari Tour, che dà la possibilità ai nostri clienti di venire in Italia, sì, e guidare in prima persona i nuovissimi modelli della Ferrari. Ecco. Ma invece, scusami, gli italiani cercano invece queste cose o sono più gli stranieri? Diciamo che noi, come io prima dice, li siamo orientati soprattutto verso una clientela estera. Però estera, sicuramente. Sono esperienze che piacciono tantissimo anche agli italiani. Ecco, quindi tu dici che ancora il Made in Italy, sia per quanto riguarda l'eccellenza dei posti da visitare, sia per quanto riguarda l'eccellenza, in questo caso dei motori come le Ferrari, ha ancora un grande fascino per gli stranieri. Esatto, è proprio l'idea di venire in Italia e vivere, diciamo, delle esperienze all'italiana, sentirsi per un breve periodo della vita proprio uno del posto, è quello che spinge maggiormente i nostri clienti. È incredibile, perché noi che invece siamo, cioè, se tu ci pensi, vabbè, tu non credo che tu sia italiana dal cognome e dall'accento. No, ovviamente. Io sono della Danimarca. e quindi noi, per noi italiani questo pare un po' strano addirittura, però fa ancora piacere sapere, sì, che gli stranieri ci vedono ancora in questo modo. Negli ultimi anni ci vedono sempre così, meglio o peggio? No, io penso che l'Italia, insomma, è un posto che per gli stranieri, diciamo, come si suol dire, non tramonta mai, cioè è sempre una destinazione molto richiesta, c'è sempre anche più da parte dei professionisti, diciamo, del settore del turismo. Più professionalità, attenzione, certo, e più attenzione appunto alla qualità, soprattutto per esempio anche nel settore alberghiero. Italia sicuramente è tra i primi posti come organizzazione di strutture. Grazie Mona, ci voleva una danese per dirci queste cose, perché le sappiamo, però è bene che ce le dicano. Che ti diamo un po' la morale su, allora. Assolutamente sì, ne abbiamo bisogno. Grazie Mona Larsen. Ciao, prego. Buona domenica. Io vi ricordo il sito, che è myyourprivateitaly.com. E a questo punto io ovviamente ho al telefono Paolo Boggi. Paolo, buona domenica. Sì, buona domenica. Insomma, Paolo Boggi, che alla fine, nel senso a un certo punto della sua carriera straordinaria, ha scritto anche dei libri, uno in particolare, quello di quale parleremo oggi, che è Poveri con la Grif, il lusso coatto e il ritorno al valore intrinseco. Allora, Paolo Boggi, il lusso per lei che cos'è oggi? Ecco, allora guardi, secondo me si fa una grandissima confusione tra consumismo delle griff, consumismo del fashion e lo si vuol far passare come lusso. Bravo. Personalmente per me il lusso è il pensare, è come spendere la propria vita, è il tipo di tempo libero, è cultura, è continuità di una scelta, e se vuol farsi una risata è pettinarsi nella stessa maniera per tutta la vita. E portare un certo modello, cioè avere una propria personalità e non lasciarsi influenzare da quello che può essere un rinnovo costante di colori, di modelli, di taglie, quello è consumismo, e quel consumismo oggi lo fanno passare come moda, come lusso, come ostentazione, perché poi lei prende una scarpa, la produce a 15 euro in qualsiasi posto dell'Asia, la mette in una vetrina centralissima di Milano, ci mette sopra Italian Dream e la vende a 350 euro, quello passa per lusso, e chi fa questa operazione pretende di farti sognare. Ma il danno peggiore che si verifica è che questa produzione, questo meccanismo, lo inseriscono in quello che sono i miti dell'Occidente, ma soprattutto i miti dell'Italia, il mito della bellezza, della ricchezza, del successo a tutti i costi, di quella ostentazione che va a coprire un vuoto culturale che assiste a gente che cammina con quell'etichetta all'esterno e crede di essere nel giusto, ecco, lasciando vuota la propria testa e non conoscendo, mentre conosce benissimo gli stilisti italiani, non conosce un autore, ma anche maggiore, questo è il punto. Ecco, quindi per me il lusso è qualcosa di intimo, lasciamolo perdere. Bisogna partire per esempio, proprio dalla cultura. Io non so se le risulta che in questi giorni è stato aperto a Milano il Fashion Kilo, e cioè si vendono le grandi marche a chilo. Ma questo però è il meccanismo della pubblicità che non vende più incassando denaro, ma incassando merce che poi beh, deve certo, realizzare. Ormai si fa come la musica, no? Ormai nelle nostre apparecchi elettronici abbiamo veramente quantità incredibili di musica senza sapere cosa stiamo ascoltando, e questo è un vero problema. Allora, Paolo Boggi, io le chiedo la cortesia di restare con noi al telefono, perché vorrei parlare con lei anche di quell'iniziativa che è stato il dare la Costituzione italiana nei negozi suoi, perché fu un'iniziativa che fece molto discutere, nel bene ovviamente, ma perché vorrei ripartire da lì, proprio dalla cultura, e quindi le chiedo di restare con me, c'è il GR e poi ci risentiamo con Paolo Boggi oggi ancora a parlare di lusso. Il riposo del guerriero. Sempre in diretta dal Vinitaly qui a Verona, nel padiglione 3 dedicato al Trentino Alto Adige, con il riposo del guerriero. Ancora buona domenica, parliamo di lusso, e ancora sono con Paolo Boggi al telefono. Paolo Boggi. Sì, sono qui. Eccoci qua, lo grande stilista, autore anche di un libro controverso, che si intitola Poveri con la Griff, il lusso coatto e il ritorno al valore intrinseco. Allora, Poveri con la Griff, abbiamo detto, perché ormai ci si butta sulla Griff indipendentemente da quello che si sta acquistando. Noi continuiamo quel discorso che abbiamo interrotto per sì. motivi tecnici, che quando lei per esempio accennava al problema musica tra sì, lusso certo. e consumismo, qui c'è gente che ascolta di tutto ma non sa che cosa sta ascoltando, invece quello lì che ama il jazz si sceglie persino il periodo per sempre. Ma per certo. tornare a noi, al lusso e quanto si diceva, noi dobbiamo cominciare a capire che la prima violenza arriva dal prodotto, la prima violenza arriva da come ti si presenta il prodotto, perché lei immagina quello lì che sta ore e ore in una coda di macchine, si vede la pubblicità poi la sera della macchina che cammina in un viale ideale, alberato, senza macchina, e lo fanno sentire anche stupido se non compra quella macchina. Ora questo, parlando di consumi di massa, è pericoloso. Il capitalismo, la libertà, la democrazia non impedisce di creare con la plastica un piccolo secchiello da vendere con il grande marchio a 500 euro, quanto ne vale 15, 20, 25, lo facciano pure, ma non facciamo credere che quella lì che non ha il secchiello si deve ammazzare, non incutiamo la cultura che quella ragazza per avere quel secchiello si deve prostituire, e si sono già verificate decine di questi casi. Un ultimo per esempio a Sirmione, che dei ragazzi rapinano una ragazza indiana che mandava i soldi al fratello in India che si doveva operare, l'hanno acchiappati mentre compravano le griff. Io non ce l'ho contro le griff, ce l'ho contro la mistificazione, certo, contro la sovrastruttura e il significato che si vuole dare finalizzato al consumo. Infatti lei è stato chiarissimo, il libro anche è molto chiaro e devo dire anche molto interessante. Lei nei suoi negozi aveva regalato la Costituzione italiana perché lo ritiene il più importante abito della nostra società. Perché l'ha fatto, a parte appunto considerando un abito? Ecco, perché io parto dal presupposto. Faccio una premessa brevissima. Sì. Una delle grandi arretratezze dell'Italia è la distribuzione. È la preda più facile da conquistare. È il consumatore. Io una volta ho avuto una conferenza in una sezione giovanile del Rotary, dicevo: avete molto più potere quando comprate un oggetto che quando entrate nell'urna elettorale. È la capacità di scelta, di coniugare il bisogno di quel momento con l'uso che ne devi fare. Non ti puoi lasciare affascinare dal patacone, non ti puoi lasciare affascinare dal cinzio. Io non pretendo che un consumatore sappia che un cinzio non può costare più di 8-10 euro alla produzione, ma deve pur fare il confronto che è un jeans, non un'opera d'arte. Poi si può chiamare come vuole, Dolce Gabbana, Laura, Armani, come vuole, ma deve avere il prezzo di un jeans. Ora questo fa parte di una informazione diffusa, di un'informazione di come vanno le cose economiche del proprio paese, di che cosa significa svalutazione, inflazione, perché ci deve vivere con questa pelle rappresentata dai soldi, ci deve vivere con questi problemi dello stipendio. Non dico che risolve e che lo stipendio diventa sufficiente, ma se io vado a un reddito pro capite di 1.000-1.200 euro in un paese, gli vado a fare offerte di lusso o gli vado a vendere miti che lo esaltano, lo abbelliscono, lo rendono più alto, più partecipe, io lo rovino, faccio una violenza. La speranza, perché dico che la speranza è la Cina, lo dico già da 10 anni, perché per esigenze demografiche deve produrre vagoni e vagoni e vagoni di merce e deve esportare miliardi e miliardi di capi, tranne poi che ci sono i furbastri che lo possono fare, sovrappongono su quel prodotto un'immagine, una cultura, una diffusione, una presentazione in una cornice di bellezza, di serate, di cose. Quel prodotto viene moltiplicato per 2000 volte il prezzo di costo. Certo, ecco, lei faceva, con questo la lascio, ma con questa provocazione, e mi corregga se sbaglio, l'idea, adesso la riassumo un po', poteva essere questa, che i falsi, o comunque che vengono venduti, vengono stravenduti a prezzi, secondo lei, anche adeguati al valore proprio della merce in sé, e danno lavoro a tantissima gente, e quindi dice che forse la vera truffa è nella vera firma e non esatto. E di falsi veri, i veri falsi ce ne sono pochi, perché colui che produce per la grande griff ha una produzione dietro che non si può fermare al cliente, e allora il grosso stilista, la grossa griff, gli ordina per esempio 50, 20, 30, 40 mila pezzi, ma lui ne produce centinaia di migliaia. Poi andiamo io e lei, ordiniamo per noi, dice: che marca volete? Gli diamo noi la marca. Ma se fossimo per esempio dei grossi compratori, possiamo dire: metteteci questa marca qua, ma guardate che questa è, noi ce la vediamo noi. E io non credo che una società che non riesce a contenere criminalità, corruzione, si mette a togliere il fabbisogno all'ambulante o al grossista che deve vendere delle cose e mantenere in piedi un'azienda. Io non so se lei conosce una frase celebre di un ambulante di Napoli, dice: signor giudice, la maglietta è uguale, io ci ho messo solo il coccodrillo. È vero che noi non possiamo eliminare la proprietà letteraria, ma non possiamo abusare di questa proprietà letteraria per fare un jeans che viene fatto da secoli per i minatori, per tutti gli operai del mondo, che viene fatto uguale con, per Clinton e per il lattaio che ci porta il latte, e qualcuno ci specula sopra e lo porta a 300 euro. Paolo Boggi, peggio della rapina. Guardi, io la ringrazio tanto per la disponibilità, per quello che ha scritto, che trovo molto interessante, ribadisco, poveri con la Grif, e per la sua appartenenza partenopea, che ci fa sempre molto piacere ascoltare, che fa parte proprio della sua vita. La ringrazio anche per quello la che ha fatto per l'Italia. Molto, buon lavoro, grazie. Grazie Paolo Boggi, e continuiamo a parlare di lusso. Sì, abbiamo qualche minuto prima della pubblicità, c'è Matteo Lunelli, che è il vicepresidente della Cantine Ferrari, che saluto. Ciao, buongiorno, Matteo. A tutti. Ecco, che allora hai sentito quello che diceva Paolo Boggi. Adesso per il vino le cose sono un po' diverse, perché dietro, io raccontavo adesso con te, parlando fuori onda, che probabilmente dietro un vino anche mediocre c'è comunque tantissimo lavoro. Ma direi assolutamente. Poi io credo in un concetto di lusso che è sempre legato molto di più all'eccellenza qualitativa, alla qualità intrinseca. E in fondo un vino è un vino di lusso, comunque un vino di eccellenza, quando esprime un contatto con il territorio, una tradizione. Qui siamo allo stand del Trentino, al Trento Doc. Lo sentiamo in questo momento, anche lo stand. Esatto. In modo particolare c'è tantissima gente qua riunita. E qui non a caso poi ogni vino si identifica col proprio territorio, e quindi un prodotto di eccellenza è tale anche perché racconta un territorio, la sua tradizione, e la qualità è quindi legata anche ad una cultura. Noi abbiamo una villa meravigliosa in mezzo ai nostri vigneti, ai vigneti del Ferrari, che è tutta affrescata, e su alcuni di questi affreschi, che hanno 5 secoli di storia, ci sono delle rappresentazioni della vita e del vino. Quindi, che vuol dire che il vino era parte della cultura della nostra gente già 500 anni fa. Ecco, io credo che un prodotto di eccellenza nasca da questo, anche da un territorio e da una cultura, e questo è secondo me il lato bello del lusso italiano. Si sono dette alcune, magari anche in tono polemico, alcune cose sul lusso. Però certamente noi invece dobbiamo promuovere e tutelare l'eccellenza, e l'eccellenza di eccellenza in Italia ce n'è tanta, nel mondo del vino e non solo. Infatti adesso di questo parleremo di Alta Gamma, della fondazione, tra pochissimo, dopo gli aggiornamenti sul traffico. Il riposo del guerriero. Sempre in diretta dal Vinitaly con Matteo Lunelli, vicepresidente delle Cantine Ferrari. In questo momento abbiamo cominciato parlando proprio del vino, ma ci spostiamo verso anche altri prodotti. Nel 1992 infatti nasce la Fondazione Alta Gamma. Assolutamente, Fondazione Alta Gamma è una fondazione che è nata da alcune grandi aziende, grandi marchi dell'eccellenza italiana, di vari settori, dalla moda al design, all'alimentare, appunto al vino, ai rappresentanti del mondo della nautica. Oggi c'è la grande ospitalità alberghiera italiana, con l'obiettivo di promuovere l'eccellenza, di tutelare l'eccellenza, e anche un po' di fare sistema per portare lo stile di vita italiano e l'eccellenza dello stile di vita italiano nel mondo. Ecco, com'è che si identifica l'eccellenza? Cioè, quali sono se ci sono, qual è il metro, i criteri per cui si definisce un'azienda facente parte dell'eccellenza? Ma per voi? Assolutamente. Un'azienda di eccellenza è un'azienda che a mio avviso sa esprimere qualcosa di diverso, di distintivo, che deve essere a mio avviso frutto di una tradizione, di una passione. In Italia spesso questo vuol dire magari una passione di una famiglia, e la tradizione di una famiglia significa magari il legame con un territorio che nel tempo ha maturato la capacità di saper fare. Molte delle grandi aziende italiane di eccellenza, ad esempio nella moda, come nel vino, come derivano dall'arte, da un'arte e dal saper fare delle persone. Santo Versace, che è presidente di Alta Gamma, racconta sempre, in fondo Gianni era un sarto, Gianni Versace. Ferragamo era un calzolaio. Sì. Ecco, e da questi mestieri d'arte sono nate le grandi marche italiane. Ecco, ma oggi i giovani cosa stanno facendo? Tornano a fare i calzolai, per esempio, come recentemente è successo, è uscito un articolo sui giornali, perché sembra qualcosa di strano, no? Qualcuno che torni a fare mestieri che si pensavano dimenticati dopo aver però avuto master, cioè frequentato master, essersi laureati magari più di una volta. È verissimo, ma noi come Fondazione Alta Gamma vogliamo fra l'altro sostenere i mestieri d'arte. Ne abbiamo parlato col Presidente della Repubblica Napolitano, sì, che ha abbracciato questo tipo di progetto, perché i mestieri d'arte sono una grande ricchezza, e spesso si fa fatica nelle nostre aziende a trovare giovani che abbiano voglia di seguire questa strada. Di continuare quella dei padri. Assolutamente, di tradizioni che poi sono state parte della cultura e della nostra tradizione. Ci sono, e questa è, secondo me è anche la... andiamo al cuore della qualità intrinseca e dell'autenticità di alcuni prodotti italiani. Alcuni dei nostri prodotti italiani sono il frutto di qualcosa di unico, che è legato a una cultura. Renzo Piano ultimamente in TV ha detto una cosa secondo me molto bella, che parlava di italianità come di qualcosa che di una capacità, parlava dell'italianità e raccontava gli italiani anche come gente che sa tessere insieme arte e scienza. In fondo molta del nostro saper fare in tanti arti e mestieri deriva da questo ed è il lato bello. Io penso al vino e penso a come il lusso, l'eccellenza poi nascono dal tempo, nascono da un lavoro ad esempio nella vigna e paradossalmente quindi abbiamo un prodotto che nasce in campagna e che poi diviene magari un prodotto sì di lusso, di eccellenza sulle tavole più importanti, sugli eventi più importanti, magari alla notte degli Oscar, che è un'immagine glamour estremamente di moda, però io penso sempre, ecco, nasce da una storia, nasce da una tradizione e forse nasce anche da una passione. Secondo me quello che oggi se cerca il consumatore cerca sempre di più è l'emozione. E un prodotto che sa esprimere un'emozione deve avere in sé, deve saper trasmettere dei valori. Poi certo c'è anche l'uso stentato, c'è ancora ci sono degli elementi esibitivi, ma credo che specialmente dopo la crisi degli ultimi anni quel tipo di moda stia soffrendo sempre di più. E tutto sommato in Italia, il Made in Italy, lo stile di vita italiano ha un'eccellenza che è legata anche ad altro, non è tanto e solo esibizione, ma è proprio qualità intrinseca. Ecco che è poi il punto di forza che dovremmo cercare di sostenere sempre di più. Dopo tutto, le volevo fare anche con Cecilia Gandini, che è al telefono in questo momento. Cecilia. Sì, buongiorno. Buona domenica. Con Marco Turinetti avete scritto Lusso necessario. A Turinetto, scusami, avete scritto Lusso necessario alla ricerca del valore per vincere la crisi. Quindi sei d'accordo adesso con quello che si diceva con Lunelli? Assolutamente, assolutamente. La tesi del nostro libro, che deriva da un'analisi anche molto capillare su centinaia di aziende, è proprio questa, che accanto a un lusso al top che per tipologia, per costo diventa sempre più estremo, anzi più estremo e più a successo e quindi è prerogativa di pochi, si è andato progressivamente affermando un alto di gamma che è destinato a soddisfare proprio per le sue caratteristiche, per l'identità, per il prezzo anche più accessibile, desideri di un pubblico che è numericamente ben più esteso. E il lusso necessario di cui noi parliamo è fortemente integrato nel quotidiano, non significa più per noi superfluo o voluttuario, è rappresentato invece da beni di uso comune che decidiamo di concederci in cambio di qualche euro, talvolta anche molti euro in più, talvolta per dei benefici concreti che questo bene può apportare, tal'altra per un'intima gratificazione. Lusso necessario può essere concedersi una cena in un ristorante speciale, può essere scegliere una bottiglia di vino particolare per un'occasione particolare, può essere sostituire un televisore che è perfettamente funzionante ma con un altro che è di ultima generazione, quindi ha delle altre prestazioni, può essere scegliere una piastrella dalla mescola particolare oppure effettuare un intervento chirurgico estetico. Ecco Cecilia, ancora una volta quindi la ricerca dell'eccellenza comunque al di là del prezzo. Ma assolutamente, io più che eccellenza direi che da parte dei pubblici c'è la voglia di concedersi magari tanti piccoli lussi per riscattarci dai ritmi di vita perentori, per garantire